nuovamente in diretta la rubrica Altri Suoni ci porterà al Mood Groove di oggi, martedì 3 ottobre. Avremo anche la presentazione con l'appuntamento di Angelica al Centro di Ricerca Musicale per questa sera, ma iniziamo ricordando Philip Jack, ricercatore musicale, artista, musicista inglese. Ieri abbiamo parlato di Brian Eno, abbiamo parlato di David Toop, oggi parliamo di Philip Jack, ne diamo un ricordo. Nasce nel 1952, scompare il 25 marzo del 2022. Lui importante e consideratissimo per quanto riguarda la musica sperimentale per giradischi. Viene definito con una forte vena elegiaca e poetica e anche legato al noise. Altri musicisti si sono ispirati a lui ed hanno portato il lavoro appunto dal giradischi al vinile in ambito di DJ work. Studia arti visive al Dartington College negli anni 70 e si cimentò nelle stesse arti visive e sonore a partire dai primissimi anni 80, periodo in cui inizia a lavorare con giradischi utilizzati veramente come strumenti e come mezzo compositivo. È il momento di notorietà, con diverse performance all'interno anche di sedi espositive, e ad opera in una performance 180 giradischi, portandoli in sonorità dall'analogico ovviamente al field recording, riportando questi suoni con il vinile per il collegamento a 12 proiettori per le arti visive. Beh, questo direi che per l'aspetto sperimentale di ricerca è stato veramente un pioniere. I suoi lavori più recenti nei primi 10 anni del 2000 sono con la Touch Record, di cui parleremo a breve, anche con un brano inedito che ha lasciato per la stessa Touch. Questo brano porta il titolo Open ed è dal disco Stock, ovviamente un lavoro che trova spazio in un'etichetta che per quanto riguarda le sonorità appena descritte è una vera realtà carismatica e quanto mai di ricerca importante. Open da Stock, ne ascoltiamo qualche parte di Philip Jack e poi torniamo in diretta nella rubrica Altri Suoni sui 103.1. Potete perdervi in questo oceano di sensazioni, di suoni tra il noise e l'ambient. A tra pochissimo! sottofondo dello scricchiolio del vinile e l'ambito del field recording del noise, con una presenza importante nella ricerca della video art. Philip Jack per la Touch Record Label, che vede in questa scuderia d'artisti voci e suoni da Christian Fennez a David Sylvian, a Joe Wobble, a Steve Lacy, e ha riportato pochi giorni fa appunto una riunione d'artisti per ricordare la ricerca di Philip Jack, che ricordo è scomparso nel 2022. Sperimentale nasce ufficialmente nel 1982 da un grafico inglese, John Wollstonecroft, che è anche creatore delle copertine degli album dell'etichetta, che sono veramente molto molto belle. Tra gli artisti ricordiamo anche Mika Vainio, The Affler Trio, sempre con queste motivazioni di ricerca musicale. Conosceremo un musicista di ricerca, seppur per pochi minuti, anche giustamente, mi rendo conto, anzi vi ringrazio per la disponibilità e l'accettazione. Non è certo musica così diffusa, ma allo stesso tempo si parla di chi è stato pioniere in ambito dell'elettronica. Abbiamo motivo di seguire a tal proposito anche la rassegna di Angelica. Questa sera al centro di ricerca musicale alle ore 17:15 è il 13° anno di attività per il piccolo coro angelico. Riprendono appunto gli incontri del piccolo coro angelico. È un laboratorio corale per bambini, bambine, ragazzi, indirizzato alla ricerca sia vocale che artistica. La sensorialità e anche l'aspetto fisico legato alla musica e al suono. E a tal proposito vi propongo, in conclusione di questa puntata di Altri Suoni, un brano di Battiato interpretato dal piccolo coro angelico, che è Povera Patria. Ci sta, direi proprio che è attinente a quello che stiamo vivendo. A tra poco, buon ascolto, a breve Mood Groove dopo la pubblicità.